perché siamo state convocate anche noi. Grazie mille. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Coppa America davvero, prima Coppa America davvero questa volta. Sì, guarda, è una cosa favolosa, è bellissimo, guarda, essere qui è bellissimo, devo ringraziare moltissimo chi mi ha fatto venire fino qua. Voglio bene a tutti. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, degli buoni amici in redazione. Oggi raccolgo un Pardo in lacrime perché non avrà più le notti magiche di Luna Rossa, che ha detto basta con la Coppa America, non la facciamo più perché ci hanno rotto le scatole, troppe regole confuse. Sei in lacrime, non ti preoccupare, Pier. Sto cercando di un'altra ragione per vivere. Ti capisco. Cino Ricci, De Angelis, tutti questi, Prada e Miuccia Prada e Bertelli, mamma mia, quando me l'ha detto stamattina Giorgio De Luca non ci volevo credere. Come stai? Bene, tu? Non c'è male, sto aspettando il Milano alla Cantonese. O al Kerry, oggi leggiamo altre notizie. Tanto noi abbiamo Beninazzo che sa tutto, è l'unico al mondo a sapere tutto, salvi diretti interessati. Ieri ci ha spiegato che la cordata thailandese, quella di Mr. B, è ancora la più accreditata. Adesso c'è un tentativo di sorpasso, leggo, da parte dei cinesi, legata a questo amico di Berlusconi di Hong Kong, però mi sembra che la strada sia quella in attesa del campionato. Mi sembra segnata, e mi sembra che alla fine poi il Milan riuscirà a fare cassa in maniera, pare, anche piuttosto considerevole, piuttosto consistente, grazie alla forza del brand di questa società, ai risultati ottenuti in questi anni, a un appeal internazionale indiscutibile. Quindi, insomma, nonostante le ultime miserie calcistiche della cronaca degli ultimi mesi, poi il Milan riesce ancora a costruirsi un futuro grazie al suo straordinario passato, certo, anche recente, perché insomma, il Milan ha continuato a vincere almeno in Europa, vabbè, l'ho scritto nel 2011, ma insomma sicuramente ha fatto cose importanti gli ultimi 25 anni, e queste poi sono state decisive per poter arrivare a questa conclusione. Come sta scritto sul pullman, credo ci sia ancora quella scritta, club più titolato al mondo, quindi grazie a questo riesce a costruirsi un futuro, hai ragione. Hai visto negli studi di Mediaset intorno a Chiambretti Ancelotti oggi? No, ma è vero, mi hai dato un'idea, adesso vado a controllare. Vai a controllare. No, perché tra l'altro ho letto che alcune dichiarazioni di Carletto, ospite di Grand Hotel Chiambretti, Moggi vittima o carnefice, né l'uno né l'altro, ha fatto parte di un sistema che non era tanto chiaro in quel periodo, e a livello dirigenziale, visto che ci ho lavorato insieme, è stato uno dei migliori che ho conosciuto da questo punto di vista, ha detto Ancelotti. E sulla richiesta di risarcimento da parte della Juventus dice: lasciamo perdere, credo che si chiuda una pagina, e deve chiudersi per tutti, quindi anche per la Juventus. Così, sì, beh, signor Carletto, sul secondo argomento sai che sono d'accordissimo, penso che il tipo di verdetto, se vuoi di non verdetto, che c'è stato la prescrizione renda piuttosto complicata la richiesta danni da parte della Juve. Credo che sia stata una pagina della storia, in questo Ancelotti forse fa un po' 0-0, fa un po' il democristiano sicuramente, però era un tipo di andaccio in quel momento che c'era. Poi probabilmente oggi questo tipo di pressione l'ha spinto più di altri, da quello che abbiamo capito, però insomma dal punto di vista del risarcimento mi sembra che non ci siano grandi presupposti, proprio anche alla luce del fatto che non c'è stata una soluzione piena, certo, ma c'è stato un verdetto di prescrizione. Quindi, ma ripeto, la vita va avanti, sai, che io, e per fortuna ci porta al campionato domani, Pierluigi, siamo in astinenza totale. 800 24 00 24, credo anche voi che state per festeggiare la che si mangia a Pasqua? A Pasqua si mangia salame e uova, salame, no? E uova. Non lo so, dipende. Dipende. La colomba. Ce l'ho. L'uovo ce l'ho. Non lo so, io vado a Torino domani sera, Juve Empoli, mangerò, non so. A bagna cauda, che vuoi mangiare? Sì. A bagna cauda a Pasqua, non so se funziona. Vabbè. La carne di fascione. Bravo. Aspettando il Milan al Cario alla Cantonese, c'è cioè il cioccolato dell'uovo del sabato del calcio, che non sarà male, eh. Aperto da Roma Napoli, tra poco ne parliamo con un sacco di voci. Ma visto che vai a Torino, ti faccio sentire Allegri che. Vai. Ha parlato anche di tutto il casino marchisio. È dispiaciuto perché per quello che è successo. L'importante è che Marchisio stia bene, che il ginocchio sia a posto, anche per Claudio credo che non sia stato semplice passare da un crociato rotto a un ginocchio sano. Quindi insomma anche lui psicologicamente ovviamente ha avuto un bel contraccolpo. Quindi. Però sta bene, si sta allenando indifferenziato e sperando di averlo anche per Firenze. E mentre qualcuno invita a ricordare cose che abbiamo fatto anche su Twitter, Maurizio Mosca è scomparso il 3 aprile del 2010, lo facciamo certamente, c'è Davide da Pisa che ieri insiste sullo stesso messaggio, credo che l'abbia rimandato, Juan Jesus e l'Inter di Shaqiri stanno al trono di spade come pardo al veganesimo ascetico. Sì. E aggiunge bestemmia. Beh, insomma, ovviamente questo trono di spade che sapete non appassiona tanto né me né il dottor Genta, però esatto. Insomma imbattuto sul trono di spade. Sappiamo che è un grande mio sì, caro, io imbattuto, però giuro che una volta lo guardo magari c'è Shaqiri. Vai a Torino a raccontare Juventus Empoli in cui credo Allegri farà ampio turnover, per tua fortuna non vai a Milano dove il Parma sta cercando un albergo che verrà pagato dallo sponsor, sì. Con letta aperta, però dall'altra parte c'è Mancini che dice attenti perché adesso siamo sotto osservazione. Tutti noi, me compreso, tutti noi che lavoriamo sotto la direzione del club, perché credo che poi sia il presidente, il club a decidere sul futuro di tutti noi, quindi noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio, anche se credo, come ho già detto tante volte, e purtroppo questo è un po' annacquato dai risultati negativi. Io credo che la squadra sia diventata una squadra, nonostante le sconfitte, giochi, sia propositiva, dobbiamo avere un po' più di sorte, dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, e quindi però è chiaro che riuscire a fare dei risultati buoni da qua alla fine sarebbe molto importante, quindi siamo tutti un po' sotto la lente di ingrandimento del club e anche dei tifosi, perché comunque è giusto che i tifosi fischino quando le cose non vanno bene e ci siamo vicini quando le cose vanno bene. Per noi ignoranti il trono, sigla del trono di Spagna. Sì. Eccola qui, c'è chi ci invita a guardarlo perché ci sono un sacco di belle ragazze. Non scrive esattamente così, ma il senso è quello. Faremo io e Pardo insieme una serata, da trono di spade. Pierluigi, ti faccio sentire ancora prima del traffico e poi per approfondire i discorsi. Allora, ti faccio una domanda secca: Benitez resta o no a Napoli secondo te? Più no che sì. Sentiamo cosa dice lui. Parliamo del mio futuro tante volte. Io queste settimane vedrò il presidente e ragioneremo sul futuro. Questo è quello che posso dire e che devo dire, e non ripeterò questo un'altra volta. Parlerò con il presidente, ragioneremo sul futuro e cose normali, cercando sempre il meglio per il Napoli. Tutti convocati. Ci saranno due belle squadre, ottimi giocatori nel campo, un grande arbitro, io mi auguro solo che sia una festa, una bella gara e una festa anche nelle tribune e fuori stadio ovviamente. la partita, possiamo avvicinarsi, possiamo essere sempre più motivati perché siamo così vicino che è più facile, però anche dobbiamo essere attenti perché mancano tante partite. L'ultima partita è con la Lazio, dobbiamo giocare con il Parma, con il Cesena l'ultimo mese, dobbiamo mantenere il livello e abbiamo anche la Coppa e l'Europa League. Credo che ho detto che una squadra alla fine, le ultime 10 partite, le ultime 2 mesi può giocare per tutto, noi abbiamo la fortuna di essere ancora in 3 fronti. Garcia e Benitez pochi minuti fa alla vigilia di Roma-Napoli, una partita. Saluto Roberto Renga, ciao Roberto. Buon pomeriggio, stavo ciao. Già lanciandomi su Buona Pasqua, ma aspettiamo. Buon pomeriggio a tutti. Aspettiamo a dopo. Una partita che lo chiedo a tutte e due, a cominciare da Pardo, che non può ciao. E non riesce ad essere banale, Pierluigi. No, non lo è innanzitutto perché sono... Però per tanti motivi. Per tanti motivi, insomma, dal punto di vista storico questo qui era il derby del sud, il derby del sole, sono due tifoserie secondo me, mentre Roberto Renga 25 secondi fa ha twittato tutti i convocati che mi chiederanno mai, ma siamo in una dimensione di comunicazione permanente effettiva, no, sicuramente... Era rivolta a voi. Esatto. No, beh, insomma, storicamente sono due tifoserie secondo me molto simili, anche se forse questo fa ancora più male, no, pensare quanti problemi ci siano, perché credo che dal punto di vista della passione, del calore, della maniera totalizzante di vivere il calcio queste due tifoserie si assomigliano. Sappiamo benissimo quello che è successo ed è ovviamente grave e non so quanti anni ci vorranno per tornare a una serenità. Speriamo che domani possa essere una pagina intanto che possa migliorare, che possa stemperare nel ricordo di Ciro Esposito. Per quanto riguarda la partita sono due crisi molto diverse, perché la Roma ha una crisi più profonda, più lunga, ha vinto solo 2 partite in campionato nelle ultime 11, il Napoli ha avuto una crisi più improvvisa, secondo me meno acuta, mi verrebbe meno da dire preoccupante. Che... ma insomma secondo me il Napoli sta meglio della Roma in generale se devo guardare il medio periodo. È anche vero che il paradosso è che nelle ultime 5-6 partite però la Roma ha recuperato punti nei confronti del Napoli, che ha perso le ultime 3 trasferte e che in casa le ultime 2 partite ha pareggiato contro l'Inter e l'Atalanta, quindi è veramente uno spariglio, cioè sì. chi vince secondo me dà una svolta in positivo alla sua stagione. Poi c'è anche il piccolo particolare che ci sono 6 punti di differenza. La Roma, al di là ovviamente del duello con la Lazio e del pensiero di un possibile sorpasso che fa star male i tifosi, da un punto di vista strettamente razionale può giocare anche per il pari. Anche un pareggio non potrebbe Napoli buttarlo no. via. Il Napoli no. Il Napoli deve giocare per un risultato solo e per questo si parla di formazioni molto offensive. Posto che io credo domani sarà un pomeriggio davvero di festa a Napoli, non è solo un augurio, è davvero mio pensiero, festa calcistica a Roma, posto che certe cose non le dimenticheremo mai, su tutto il resto Roberto come la pensi? Ma guarda, intanto a me sembra molto triste giocare mezzogiorno e mezza. Perché dice così ci sono meno pericoli, ma pensate se dobbiamo pensare ai pericoli per una partita di calcio, la prossima dove la giochiamo? Sulla Luna? Poi non invidio il nuovo prefetto di Roma, che comunque si trova subito con la Pasqua alla Via Crucis, e ma sai, partita. Però sai bene, anche il derby di Roma è vietato in notturno più o meno, no? Sì, ma a mezzogiorno e mezza. Sai che stanno della luce è la stessa cosa, Cosa. Ma senti, Luigi ricordava cos'era Roma-Napoli. Roma-Napoli era veramente una festa. Arrivavano dei pullman da Napoli, scendevano a Corso Vittorio, c'era una scazzottata con quelli della Roma Centro, salivano sui pullman, andavano tutti insieme e poi c'era la curva che cantava Un soldato innamorato e lì era una poesia autentica. Detto questo, speriamo che domani lo possa essere altrettanto. La partita, la Roma ha una sua linea di condotta che è sempre uguale ormai da molto tempo, non vince più dal 30 novembre, perché tu dici partita interna, pareggio, però il pareggio potrebbe non bastare qualora la Lazio vincesse a Cagliari. Il Napoli invece ha una condotta completamente diversa, tu sul Napoli non puoi scommettere, non sai con quale piede si è alzato la mattina, come fai a sapere come giocherà il Napoli? E comunque il Napoli le partite secche le gioca molto bene, mentre c'è da dire che la Roma quando si alza l'asticella perde, passa dal pareggio alla sconfitta. Succede metti con la Juventus, con la Fiorentina, non ricordo quelle di Coppa dei Campioni, lasciamole perdere. A Napoli, dove il Napoli giocava la miglior partita della stagione. È vero, è vero. E quindi dovendo, se uno dovesse fare una previsione, io direi Napoli, no? Perché è tra l'altro per il Napoli è anche più importante che per la Roma, perché per la Roma, come diceva Pierluigi, in fin dei conti un pareggio, non è detto che la Lazio vinca a Cagliari, no? Per cui un pareggio potrebbe anche essere considerato positivo. Posto che la Lazio andrà in campo alle 15 a Cagliari, conoscendo il risultato delle altre due, e questo è e sarà un piccolo vantaggio. Ma Pierluigi, credi che la Roma possa essere stata medicata dalla vittoria a Cesena, gol di De Rossi, una Roma che sarà senza Totti, certamente l'ha detto, l'ha confermato Garcia, senza Gervinio, e questo lo sapevamo già, e con due settimane di lavoro, sebbene per quelli che sono rimasti al netto delle nazionali, nelle gambe per una squadra che stava male fisicamente, potrebbe essere qualcosa di diverso? Penso di sì, penso che... sicuramente le due settimane possono essere state utili, anche se devo dire la verità che le vittorie della Roma di quest'anno, rare, mi riferisco ovviamente al 2015, non hanno mai medicato le ferite. Dopo Cagliari ci poteva essere la sensazione che il peggio fosse alle spalle, e la settimana dopo, se non sbaglio, c'è stato Roma-Parma 0-0. Dopo Rotterdam, che sembrava un passaggio, quello sì, veramente cruciale dal punto di vista anche della difficoltà dell'avversario, delle difficoltà ambientali, ci sono stati altri risultati negativi. Insomma, a me sembra una squadra di rottura prolungata, usando un gergo da ippica. È vero che poi tutte le cose hanno una fine, insomma. Scusate la banalità, queste due settimane sicuramente avranno contribuito a lavorare con un clima un po' diverso. La Roma adesso non ha più le coppe, che da un lato chiaramente è una certificazione del fallimento stagionale, dall'altra però per una squadra che mi sembra un po' corto di fiato e di brillantezza, significa avere una settimana fra una partita e l'altra, quindi poter quel vantaggio che sicuramente ha avuto la Lazio e che la Lazio ha saputo cogliere in maniera perfetta con la sua straordinaria brillantezza fisica, adesso ce l'avrà pure la Roma, e sarà un vantaggio rispetto ovviamente al Napoli e alla Fiorentina, per cui insomma questo può essere un segnale di speranza e di ripresa. Le mie sensazioni sono più Napoli che Roma, sinceramente. Quindi concordi con Renga? Sono d'accordo con Renga, però sul fatto che Napoli è sconcertante, nel senso che è una squadra che spesso si perde nelle partite banali. Ecco, quella di domani non è una partita banale, di solito il Napoli le finali le gioca bene, di solito le grandi partite le gioca bene, poi ci sono le eccezioni pure lì, perché Milan-Napoli per esempio fu giocata malissimo. Però insomma, in generale questo tipo di andamento nelle grandi partite è migliore. Sì. Molto dipenderà anche tatticamente, insomma, se la Roma è chiaro. Se la Roma attacca, ovviamente concede spazi al contropiede del Napoli. Ma questo è un punto cruciale. Oggi si dibatte, si insiste molto dappertutto, poi gli allenatori stanno con le bocche chiuse sulle formazioni, ma a Napoli già chi parla di della possibilità di un Napoli molto offensivo con Gabbiadini, Caleon, Higuain, Amsic. Non so se sia una soluzione proponibile dall'inizio, o forse può essere la soluzione per una partita da vincere e mettere subito sotto pressione la Roma, Roberto. Però sai, se gioca Amsic, vuol dire che Gabbiadini dove gioca? Gioca a sinistra, che non è il ruolo suo. Sì. Perché lui ama giocare o dietro il centravanti, o fare il centravanti a giocare a destra, perché rientra di sinistra. Secondo me gioca del Guzman, che mi permette comunque di fare una specie di 4-3-3. Napoli può permettersi di tenere fuori Gabbiadini in una partita come questa? Secondo me no. Io adesso sentivo Pardo, e in effetti il Napoli è squadra da grandissime partite. La partita di domani può valere una finale di Coppa Italia, se sicuro, no? Roma-Napoli. Sicuro. E quindi possiamo anche presumere che il Napoli domani possa dare il meglio di sé. Anche se sinceramente una partita come questa, a mezzogiorno e mezza, sotto il sole, perché a Roma fa caldo, Io non so domani che farà, ma in questo momento fa molto caldo. Io ho provato a stare al sole e ci si sta con difficoltà, per cui mi sembra una partita carente da questo punto di vista, con l'handicap, peccato. Grazie Roberto. Grazie a voi. Grazie. Buona Pasqua, adesso me lo dico. Buona Pasqua Roberto Renga. La Juve invece va, Pierluigi, tu vai a raccontare una Juve che grosso modo si allena, no? Sì, per quanto riguarda la Juve bisogna solo capire quando sarà la festa Scudetto, insomma, bisogna solo capire a quante giornate dalla fine, con quante giornate di vantaggio la Juve vincerà il quarto scudetto consecutivo. Per il resto, insomma, sai, ogni occasione in questo momento per la Juve è buona per far festa. Sì. Certamente c'è la complicazione Marchisio che rende il centrocampo un po' più difficile da organizzare, però è un momento interessante per Allegri. Deve veramente allenare, fare delle scelte intelligenti sulle rotazioni, perché gioca domani con l'Empoli, gioca martedì a Firenze. tentando di rimontare uno 0-2 con la Fiorentina, e ovviamente nel mirino sappiamo che cosa c'è. Quindi è un momento interessante dal punto di vista delle scelte. Sì, domani secondo me potrebbe essere un'occasione appunto per Bonna, per Scuraro, per lo stesso Pereira, insomma per chi ha giocato un po' meno davanti ci potrebbe essere il sacrificio di Tevez dal primo minuto. È chiaro che la Juve sta per vivere notti molto più importanti, con tutto rispetto per la partita di domani. Adesso fammi vendere il prodotto, domani sera sarà comunque una partita da vedere, da seguire, insomma, e fra l'altro l'Empoli gioca molto bene, quindi secondo me sarà un'ulteriore opportunità di vedere per esempio Valdifiori all'Opera, tra l'altro insomma sempre a Torino, quindi io penso che sia una partita che ci può regalare molto dal punto di vista dello spettacolo, proprio perché nessuna delle due avrà un particolare assillo, perché la Juve comunque qualche seconda linea inevitabilmente dovrà metterla e potrebbe anche essere un pochino meno qualitativa rispetto al solito, però è chiaro che dal punto di vista delle motivazioni le sfide che stanno per arrivare dopo sono più importanti, a cominciare dall'impresa impossibile della Coppa Italia, perché impossibile. 1-2 è un risultato, no impossibile per modo di dire, 1-2 è un risultato complicato. Beh, insomma, 2-1 fuori casa è un risultato che dà, diciamo, un 80% di possibilità alla Fiorentina, però il 20% io sono convinto che la Juve proverà a giocarselo tutto. Si ricomincia. Convocati. Ecco che torniamo dunque subito. Avviso ai convocati: domenica non c'è tutti i convocati, weekend, perché siamo impegnati a spaccare le uova dalle 17 alle 19, dunque rompete le uova anche voi. E mentre lunedì, con le uova già rotte, saremo in diretta normalmente. Quindi tutti i convocati lunedì di Pasquetta dalle 14 alle 15:30, Pardo compreso. Vero? Vero? Pierluigi, dove sta? Adesso lo recuperiamo. Tanto 800 24 00 24 è il numero verde. Pasquale da Foggia, Mimmo da Lecce, giro in Puglia subito. Pasquale, buongiorno. Buongiorno, telefono da Gargano. Mamma mia che invidia, che come siamo messi a tempo? Qui è venuto un bel tempo con il sole. Ah. Però ho sentito che domenica e lunedì piove. Domenica e lunedì piove. Aia. Ce lo facciamo aia. Sotto l'ombrello. Aia, volevo quasi venire. Invece mi stavo per autoinvitare a casa sua. E io voglio che venite tutti sul Gargano. Ma potendo. A voi Radio 24. Non sa quanta voglia avrei in questo momento. Perché è stupendo. Lo conosciamo bene. Pardo soprattutto. Allora, volete sapere da che parte è Gargano? Sì, dica. Vico del Gargano. Vico del Gargano, meraviglioso, meraviglioso. Poi Pasquale, che vogliamo dire? Eccolo qui, Pierluigi, dimmi, andiamo a Vico del Gargano, ti porto a casa di Pasquale. Siamo invitati. Vai. Dica. Allora, io sono un tifoso del Milan. Sì. E voglio che Inzaghi rimanga ancora per 3-4 anni. Ah. Perché? Perché l'hanno troppo messo giù da quando il Milan non fa risultati. Credo sia un po' la vita degli allenatori, sarebbe una scelta molto bizzarra quella di confermare comunque un allenatore. Voglio chiedere, il Milan domani mi sembra che c'è una partita molto ostica con la squadra di Dybala, cioè il Palermo, se non sbaglio. Sì. E voglio chiedere, tra Dybala e Menez, attaccante del Milan, chi è il più in forma? Voglio chiedere a tutti gli aiutanti ascoltatori di Radio 24. Sì, io non ho dubbi su di sé. Voglio chiedere se il Milan ce la farà ad avere un posto in Europa League. Questo lo vuole chiedere anche, a proposito dell'Inter, lo vuole chiedere anche Michele da Ischitella Garganico a Pierluigi Pardo, che è stato elevato al rango di direttore da Michele. Addirittura, allora, grazie. Sì. Grazie, ma odio le responsabilità, quindi devo subito dimettermi. No, a parte le battute, credo che Inter e Milan poche o pochissime, mai dire mai, insomma, è chiaro che ci proveranno fino alla fine, anche perché è l'unico obiettivo rimasto della stagione, per provare neanche a salvarla, perché insomma, se dovessero andare in Europa League dopo aver fatto tutti gli altri obiettivi, sarebbe comunque secondo me una stagione negativa, però insomma è l'unica cosa che possono provare a fare per regalarsi un finale di stagione in qualche modo interessante. Non credo che ci siano i margini. Tra l'altro è stato chiarito ormai da un paio di settimane da Infantino dell'UEFA su tutto il discorso relativo al famoso giallo del settimo posto. A un certo punto sembrava che il settimo posto potesse essere in qualche modo portatore, sì, di un posto in UEFA, e non è così, nel senso che qualora la squadra italiana dovesse vincere l'Europa League, quindi Fiorentino Napoli fosse non qualificata per la Champions, ci sarebbero quattro squadre in Champions e due in Europa League, cioè sì, la settima non va. L'unico caso per poter avere sette squadre italiane in Europa è che la squadra che vince l'Europa League, quindi Napoli e Fiorentina, dovesse arrivare dal settimo posto in giù. A quel punto ci sarebbero sette squadre, ma insomma questo vorrebbe dire quindi che Milan e Inter dovrebbero riuscire a superare Fiorentina e Napoli. Comunque mi sembra molto, molto complicato, quindi una via molto stretta, una via molto mi sembra stretta. Dura, tu che dici, Dybala o Menes? Non ho dubbi, cioè Dybala tutta la vita. Beh, anche se Menes sta facendo molto bene, Menes è vero che ci sono tanti rigori, 8 se non sbaglio. Sì. Stia facendo una grande stagione, è indubbio che sia dagli exit poll dell'ultima partita sia in forma, va bene. Se parliamo di valore assoluto, né Mancini abbiamo dubbi, anche perché Mancini oggi ha aperto il mercato dell'Inter, vuole Dybala e Touré, abbiamo capito, dice Dybala un grande, Touré felice se arriva, e non sarebbero due colpi da poco. Sì, il problema è che bisognerà anche cominciare a fare risultato all'Inter, oltre a continuare a comprare il giocatore. Mancini, la cosa migliore che ha fatto indiscutibilmente fino ad oggi è stato di portare il sorriso, e non è una battuta, comunque di portare una certa positività al mondo interista, ed era importante. Certamente ha portato dei giocatori interessanti, tutti Shaqiri, mi sembra che abbia una dimensione europea. Non si conosceva, però insomma, mi sembra che abbia una dimensione anche in prospettiva molto molto buona. Poi però per il resto pari sono pochi, e sappiamo che molte delle strategie di mercato dell'Inter in realtà sono vincolate al raggiungimento degli obiettivi europei, per cui insomma da un lato se non entrano i soldi delle coppe sarà più difficile anche comprare, anche se abbiamo sentito negli ultimi giorni che Touré sarebbe pronto comunque a mettersi le mani in tasca e mettere 60 milioni per il mercato dell'Inter. Ma qui vale un po' quel discorso che facevamo prima in maniera un po' diversa, mutati mutandi, direbbe lo Tito, a proposito del Milan, cioè comunque l'Inter, anche lei ovviamente ha un brand, ha un'immagine, ha una storia che fa sì che possa essere un luogo nel quale grandi giocatori comunque vengono perché vogliono vivere un'esperienza di un certo tipo, quindi sul piatto questa credibilità, questa allurcia esiste, certamente c'è ancora. Certo. C'è chi scrive, Paolo da Prato: ha ragione l'amico milanista, spero che Inzaghi rimanga per 3-4 anni ancora, ma sono interista. Mimmo Lecce, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Io stavo chiamando per una precisazione relativa a quello che ha detto Pardo poc'anzi, e cioè praticamente che la prescrizione non servirebbe molto al ricorso della Juve. Io vorrei precisare che la Juventus è stata condannata da un punto di vista sportivo, infatti è stata l'unica retrocessa in Serie B, ed è stata assolta nel processo penale. Quindi la Juventus della prescrizione di Moggi non gli interessa niente, anche perché Moggi è stato condannato in qualità, praticamente perché agiva per conto proprio e per, diciamo, per la sua società, per la GEA, la famosa società di procuratori. Sì. Quindi per cui la Juventus, che il fatto che abbia avuto la prescrizione Moggi non gli interessa niente, quindi il percorso verso il TAR non è affatto bloccato, come diceva Pardo. No, io mi limito, non sono un esperto di vicende giudiziarie, però mi limito ad osservare quello che anche in tanti hanno scritto, cioè che chiaramente un'eventuale assoluzione con formula piena, che era ovviamente il massimo risultato possibile raggiungibile dalla difesa, avrebbe reso certamente facile un tipo di riconoscimento di questo tipo. Poi che si possa provare, andare al TAR, per carità, insomma, io ribadisco, se il tema appassiona, per carità, va benissimo, però insomma mi sembra onestamente che chiaramente una assoluzione di quello che era il dirigente operativo della Juve in quegli anni, al di là del fatto che poi chiaramente lui risponde personalmente, ha risposto personalmente, in qualità di dirigente, ma ha risposto personalmente, avrebbe certamente reso più semplice questo tipo di trafila. Io comunque rimango dal punto di vista di cui sopra di Carlo Ancelotti, certo, espresso a Chiambretti, che vedremo stasera, guardare avanti. Democristianamente, ammettiamolo, credo che si chiuda una pagina e deve chiudersi per tutti, quindi anche per la Juventus. Saluto e ringrazio Franco Ordine. Ciao Ciccio. Ciao. Oggi è la giornata di posta, prima di Gargano, Lecce, Gargano, Lecce e adesso Franco Ordine. Chi è Lecce? Chi è Lecce? No, un ascoltatore da Lecce. Un ascoltatore da Lecce. Allora Franco, dove va ad Oriente il Milan? Perché adesso si giocano 10 partite, un pugno di partite inutili. La vera partita, lo sappiamo, si gioca è questa. Sì, guarda, io provo a fare un brevissimo riassunto delle puntate precedenti. Le cose stanno così, e cioè qui ci sono in atto due due diligence, cioè due controlli dei conti della società rossonera. Uno esercitato dai professionisti di Mr. B, famoso catchball thailandese, l'altro esercitato dal tra virgolette acquirente cinese, sulla cui identità si è molto discusso. Ci sono state varie attribuzioni. L'incontro di ieri sera ad Arcore con Li farebbe pensare che questa è l'identità più diciamo tra virgolette autentica, anche se mi pare di dover dire che anche in questo caso non si tratterebbe di un singolo facoltoso imprenditore, ma di un capo cordata. Sì. E questa è obiettivamente diciamo la preoccupazione, perché anche nel caso di Mr. B Touchball siamo a un capo cordata, certo. Tanto è vero che il suo piano fatto fatto uscire attraverso qualche fonte calcistica italiana, per capirci Fabio Cannavaro, lui sottoscriverebbe dei 250 milioni per l'acquisto del 30%, 100 e gli altri 150 li troverebbe sul mercato asiatico. Sì. Capisci che così un'operazione che dovrebbe valere molto di più dal punto di vista economico-finanziario non ha una grandissima, enorme credibilità, al pari di quella cinese. Cioè qui ci vorrebbe il magnate di qualunque... paese, estrazione geografica, sì. Capace di questa è... adesso i tempi sono i seguenti: entro il 30 aprile le due due diligence devono essere esaurite, quelle i due protagonisti in campo devono esprimere per iscritto una proposta di acquisto con relativa data di scadenza. A quel punto entra in ballo l'azionista, che Fininvest, cioè per meglio intendersi Silvio Berlusconi, che deve decidere se un no o un sì, e se un sì a quali condizioni. Certo. E lì comincia la trattativa. E lì comincia il gran ballo, che è un ballo comunque da 950 milioni, un miliardo di euro, sì. debiti compresi. Allora state lì, Pierluigi Pardo, Franco Ordine, abbiamo il traffico e poi discutiamo di questo punto, perché... il senso di tutto questo è che Berlusconi è pronto a vendere il Milan, non una quota di minoranza come si è sempre detto. Sono convocato anch'io, io vengo in ritiro per forza. Tutti convocati. Certo che tornerei a Milanello, è l'unico posto dove mi piacerebbe tornare. Inzaghi ha fatto bene a prendere il Milan. Quando ti capita l'opportunità di allenare le grandi squadre la devi cogliere. Il futuro? Sono 20 anni che faccio allenatore, sono 20 anni che in questo periodo mi chiedo dove sarò ad agosto, ma non c'è nessuna novità a proposito della mia panchina. Questo ha detto Ancelotti a Chiambretti. Franco Ordine sempre con noi, Pierluigi Pardo. Dunque, dicevamo, la notizia vera, al di là della credibilità di cordate, di nomi, di scioglilingua asiatici, è che Berlusconi a questo punto pare pronto a vendere il Milan, non più quella famosa quota di minoranza di cui hanno sempre parlato. No, io penso che le cose non stiano proprio così, nel senso che Mr. Touchball ha detto di essere interessato, e poi si è capito perché, alla quota di minoranza, anche perché è un fratello molto impegnato economicamente, molto più solido di lui nel ramo costruzioni, diciamo il suo retropensiero è quello di lanciarsi nella costruzione dello stadio. Sì. Per quel che riguarda le intenzioni del presidente, il presupposto dal quale lui parte è sempre lo stesso, e cioè porte spalancate a chi è interessato a fare il bene del Milan, che vuol dire in questo momento avere una tale disponibilità da acquistare le quote e contemporaneamente rilanciare dal punto di vista tecnico con un sontuoso mercato le quotazioni della squadra. Quindi non è assolutamente semplice trovare un partner di queste dimensioni economico-finanziarie. No, no, no, certo, un partner che mette lì comunque un miliardo e che si porta a casa, che si porta a casa tutto il pacchetto. Pierluigi, pensi che sia questo lo scenario? Sì, sì, io penso che sia assolutamente questo lo scenario, ed è comunque già di per sé, già il fatto che se ne parli, che ci sia questa possibilità, è uno scenario rivoluzionario. Quindi insomma credo che siamo di fronte comunque a un passaggio epocale, almeno potenzialmente, no? Poi c'è da capire appunto il ruolo eventuale di Barbara, che in ogni caso dovrebbe restare, e anche Galliani dovrebbe restare, appunto, perché poi scusate, ma anche in questo caso tutto dipende dalla quotazione. Cioè, se la quota assegnata al compratore è una quota di minoranza, appunto, non si è mai visto che la minoranza sceglie il presidente. No, certo. Ma infatti la domanda è questa, cioè, abbiamo di fronte, abbiamo due scenari che sono completamente diversi, perché l'ingresso e l'immissione di capitali freschi da fuori come soci di minoranza in questo Milan darebbe al Milan attuale, quello che abbiamo conosciuto in questi anni, la possibilità di essere più competitivo sul mercato, di poter crescere, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, e quindi sarebbe, diciamo, una buona notizia a prescindere, ma nella continuità di questo tipo di rapporto. Diverso invece il caso di un'eventuale quota di maggioranza, quello ovviamente porterebbe il Milan di fronte a degli scenari impronosticabili, nel bene e nel male, perché poi non sappiamo se questi saranno più bravi o meno bravi di quelli che c'erano prima. Quindi quello sarebbe veramente la rivoluzione copernicana. E il ruolo di Barbara, che da quello che vi risulta, insomma, è molto impegnata comunque ultimamente, mi sembra molto appassionata della materia, della questione, è chiaramente una diretta conseguenza di tutto questo, perché se c'è maggioranza da parte dei nuovi compratori è chiaro che ci potrebbe essere un profondo ridimensionamento sia suo che di Galliani, insomma, dell'attuale però insomma, il dato politico mi sembra molto chiaro, cioè mi sembra che comunque ci sia messa in testa l'idea che così forse non vale più di tanto competere e che quindi si deve cercare inevitabilmente delle soluzioni e delle entrate fresche, sì, per poter essere più competitivi. Tanto si continua a parlare di nuovi allenatori, sono stati fatti mille nomi, non so quanto questo possa essere insomma deciso ora, aspettando la soluzione dei casi societari. Restano al Milan, Franco Ordine, queste partite per provare a salvare la faccia, quantomeno, perché non c'è nient'altro. A Palermo domani ha rischio di sporcarsela di nuovo. Sì, ma soprattutto insomma, adesso diminuiscono anche i famosi alibi per Pippo Inzaghi, perché adesso praticamente ha tutti a disposizione. Per duplicare il titolo della trasmissione sono tutti convocati, non ci sono, diciamo, adesso, a parte Montolivo che ritorna con la Sampdoria, tutti gli altri fanno parte del gruppo, quindi anche questo diminuisce, abbassa la soglia delle comprensioni, delle giustificazioni nei confronti di Pippo. Ma questo è, diciamo, da qui alla fine del campionato, è un campionato che riguarda soltanto Pippo, il futuro di Pippo, la credibilità di Pippo allenatore. La scelta del nuovo allenatore credo che sia comunque, è la prossima campagna acquisti, comunque vadano a finire le trattative, che non è pensabile si possono esaurire entro il mese di maggio-giugno, sarà comunque opera dell'attuale presidente e dell'attuale management. Grazie Franco. Saluti. Grazie Franco Ordine. Quindi Pier, non vale il discorso fatto da Mancini per l'Inter, cioè Mancini ti dice giustamente: io sarò l'allenatore, il progetto è questo, faremo mercato, Dybala, Touré o chi verrà all'Inter, siamo tutti sotto esame, mentre al Milan, se sono così le cose, l'unico sotto esame è Inzaghi, che peraltro sappiamo già verrà bocciato, mentre per tutti gli altri festa. Cioè non, sì, beh, l'Inter diciamo che scegliendo un allenatore forte personalità e forte storia come Mancini, in qualche modo ha ridotto molto il suo margine di incertezza, cioè si è affidata mani e piedi a Mancini, gli ha dato anche una certa carta bianca sul mercato, che abbiamo già visto comunque a gennaio si è tradotta in acquisti anche importanti. Le incognite sono incognite ovviamente legate ai risultati, perché se i risultati non arrivano, se non c'era accesso alle competizioni europee, si significa anche che quegli investimenti che speravi di poter fare non li puoi fare più, oppure li puoi fare, ma a quel punto lo scotto è quello di dover vendere alcuni giocatori. Dybala piace, ma è fattibile prendere Dybala senza sacrificare Icardi? Questa è una domanda, così come il discorso di Touré si lega secondo me anche al discorso di Kovacic. Cioè, sappiamo Handanovic, su quali sono molte voci di mercato, con la Roma che sembrerebbe favorita. Insomma, ci sono tutta una serie di incognite dovute al fatto che questi soldi, che sono sempre di più, che l'UEFA ti dà, sì, partecipi alle competizioni europee, bisogna vedere a chi li darà. Mancano queste 10 giornate, anche se onestamente, ripeto, per me Inter e Milan avrebbero veramente bisogno di un miracolo per acciuffare un posto in Europa League. Senti, in un minuto e mezzo me la fai la schedina? Sì, vai. Roma-Napoli 2, Atalanta-Torino. Atalanta-Torino X. Cagliari-Lazio 2. Genoa-Udinese 1. Inter-Parma, credo non ci siano grandi dubbi, no? Ma Genoa-Udinese posso fare un over? Vale, sì, quell'over? Sì. Perché non lo so, Genoa è una squadra strana. Inter-Parma credo 1, sì. Palermo-Milan 1. Sassuolo-Chievo X. Verona-Cesena X. C'è un interessante Fiorentina-Sampdoria alle 18:30. Questa è bella, questa è bella. Gol, se segnano tutte e due. Io dico 1. Sì, però la Samp è una squadra strana, Sì. Tecnicamente sì, cioè, tecnicamente insomma il valore, però poi se la sentita c'è anche un po' il pensiero della partita di martedì, non lo so. Ti direi gol, che il gergo degli commettitori è che segnano tutte e due. E quella che commenterai tu, Juventus-Empoli? 1, abbastanza facile, credo. Beh, magari Sarri va lì e gioca il partitone. Sì, ma guadagna 3-1. Sì, ma sai, l'Empoli si è guadagnato, ha avuto un enorme merito quello di guadagnarsi veramente la possibilità di giocare in maniera quasi scanzonata. Certo. È la condizione in cui riesce a... Assolutamente, è la condizione anche in cui riesce a essere veramente divertente. Grazie, Pier. Ci sentiamo lunedì. Ciao Pierluigi Pardo. Abbiamo GR poi di nuovo qui e non scappate, 800 24 0024 numero verde. Scusate, ma un time out di 2 minuti e mezzo me lo concedete? Una mezza sigaretta fuori, per favore. Tutti convocati. Tutto questo innanzitutto perché grazie al professor Donati io ho questa possibilità unica che forse prima di me nessuno ha avuto, anche perché forse non aveva la volontà di farlo, di fare una serie di cose a livello proprio di antidoping, di controlli che fino adesso nessuno ha fatto. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Questo è un percorso lungo, insomma, dove la fiducia e il rispetto bisognerà conquistarselo passo per passo, quindi ci vorranno non una sola gara, ma tante gare, tanti allenamenti e tanti messaggi, diciamo, positivi, no? Prendi la mano e rialzati, puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te, ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Nessuno lo obbligava a scegliere me, scegliendo me capiva perfettamente che non avrebbe incontrato un allenatore, diciamo così, distratto. Anche questa è stata un'ulteriore convalida che alla fine tutti questi fattori mi hanno convinto ad aiutarlo. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani, credo negli esseri umani. Allora... Allora, non è calcio naturalmente, l'avrete capito, Alex Schwarzer e Sandro Donati che sono intervenuti tra ieri e l'altro ieri ai microfoni di Radio 24. Chiedo agli ascoltatori Andrea, Ugo, Paolo di rimanere in linea, 800 24 00 24, il numero verde. Non è nemmeno un argomento molto pasquale, ma un argomento estremamente interessante. Anche perché ieri l'ho citato più volte, Fausto Narducci, nel suo commento sulla Gazzetta dello Sport, esprimere un pensiero che è un po', e qualche dubbio, che sono un po' anche i miei. Oggi l'ho convocato. Ciao Fausto. Ciao, buongiorno. Titolo: Alex, solo un'operazione di marketing. Attacco: un'operazione di marketing, non ci sono altre etichette per definire l'iniziativa che ha permesso ad Alex Schwarzer di uscire dal suo carcere dorato, nel quale aveva recluso il più clamoroso caso di doping negli ultimi anni, verso la libertà vigilata che lo porta direttamente a Rio. Questo è quello che pensi tu, ma grosso modo anche quello che penso io. Una gigantesca operazione di marketing con diversi interrogativi. Quali? Beh sì, il caso è molto spinoso e siamo molto combattuti, devo dire anche al giornale, per cui non è stato facile prendere una posizione, direi quasi coraggiosa nell'esprimere questi dubbi. Quello che io contesto non è assolutamente la presenza di Donati, che è un benemerito della lotta al doping, ma è la spettacolarizzazione che si sta facendo di questa vicenda, che è diventata un'operazione, come ho detto, di marketing, un'operazione chiaramente condivisa da tanti personaggi anche del marketing, che in una vicenda di doping non hanno molto posto, direi. Mm-hmm. Non era mai successo, insomma, diciamo la verità, che un atleta nel pieno della squalifica si mettesse al centro di un'operazione che prevede fotografie, passaggi televisivi, sì. Informazioni costanti, vero, verrà anche testato, ma ci verranno dati tutti i riferimenti tecnici della sua avanzata verso Rio, mentre la legge, proprio la legge sportiva è anche... La logica vorrebbe che un dopato nel periodo della squalifica rimanesse nell'ombra, rimanesse quindi, fuori. Quindi tu pensi che in maniera molto perversa sia stata utilizzata la pubblicità creata da questo caso, da Carolina Kostner, da questa vicenda, che comunque è, della quale comunque si è parlato un sacco, credi che sia stato sfruttato in maniera furba probabilmente, ma un po' perversa questa onda mediatica? Sì, diciamo consapevolmente o inconsapevolmente. Secondo me sia Donati, ripeto, uno di cui ho letto i libri ed sono libri che fanno la storia del doping, sia sì. Libera soprattutto, Don Ciotti, personaggi inequivocabili nella loro posizione, sono un po' le vittime di questo gioco, Schwarzer forse a metà, però dietro c'è una regia che prevede appunto di sfruttare l'onda della popolarità di questa vicenda, che non dovrebbe essere popolare, dovrebbe essere una di quelle cose di cui magari non si parla, aspettando che scada la squalifica e poi parlarne quando sarà il momento in cui Schwarzer si mette veramente ad allenarsi con i criteri ufficiali dell'allenamento, quindi poter usufruire degli stadi, perché quello che è chiaro che lui non può usufruire di stadi, di strutture federali, di aiuti del CONI. E ci sono delle norme che lo vietano. Esatto, norme che rispondono alla logica, io anche questo sottolineavo. Se c'è una legge che dice sportiva, che dice gli stadi non si usano nel periodo della squalifica, vuole intendere lo squalificato venga messo da parte nel periodo in cui deve pagare il suo reato sportivo. Poi tu dici però preparare Rio su una ciclabile non è un'impresa semplice. E d'altra parte, guarda, mi viene in mente quasi la logica, sto forzando ovviamente i termini, la logica per cui in un paese come questo salta fuori il nome di Schettino per l'isola dei famosi, è questo, no? Grosso modo è questo. Anche in negativo si sfruttano le situazioni, e questo esatto. Potrebbe essere prepararla su una pista ciclabile ci dice tutto della vicenda, no? Perché immaginate Schwarzer che si allena mentre passano le biciclette sì. E i passanti romani, e lui è lì che sta preparando l'Olimpiade, non so se si è mai vista una cosa del genere. Sì, insomma, poi Schwarzer è non esattamente uno che non conosce, non hai mai visto in televisione. Però un altro grande punto interrogativo che tu poni è: ma Sandro Donati, di cui ovviamente che è un personaggio indiscutibile, perché si è prestato a questo? Noi le abbiamo chiesto e questa è la risposta. Intanto andando a fornire la sua collaborazione ai magistrati, e questa era anche una condizione che io avevo posto, che lui dicesse tutta la verità, e lo ha fatto. Poi mi ha offerto la sua disponibilità a rinunciare alla finestra oraria, che vuol dire nei controlli antidoping a sorpresa essere disponibili per questi controlli solo un'ora al giorno, e lui ha rinunciato, quindi si rende disponibile 24 ore su 24. In questo senso è una novità assoluta e sarebbe l'unico. Dopodiché mi ha chiesto espressamente di preparargli un sistema di monitoraggio ematico che io ritenessi, diciamo, significativo. Io mi sono rivolto a dei professori universitari e glielo abbiamo preparato in modo adeguato, e si aggiungerà ai controlli antidoping. Quindi Perdonati potrebbe essere quasi la cartina al tornasole di tutta la sua battaglia, oppure una voglia di redenzione o di redimere un atleta che ha avuto questi problemi. Sì, diciamo che Donati ha anche, ma non con cattiva idea, lo dico, voglia di tornare nel giro dell'atletica, e questo ci sta. Da allenatore. Come allenatore, perché lui è stato un grande allenatore fino a un certo momento, poi, come sappiamo, come scrive nei suoi libri, è stato emarginato per la sua guerra sacrosanta al doping che ci ha raccontato. Quello che non mi piace, ripeto, è perché, anche sentendo le parole di Donati, fare tutto questo con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato tanti giornalisti, tanti fotografi, tante telecamere, in un mondo in cui di atletica non si parla più. L'Asse sta avendo più spazio di qualsiasi altro atleta italiano sta avendo lo spazio come se avesse vinto un altro oro olimpico. È un paradosso. Lui, lo dico perché lavoro in un giornale sportivo, facciamo fatica a trovare spazio per l'atletica, per imprese vere, e stiamo dando noi e tutti i giornali italiani tantissimo spazio a una vicenda che tutto sommato è una vicenda di doping, non una vicenda di un'impresa sportiva. Sì, ma anche tanti risvolti, cioè il non banale il fatto di questa coppia d'oro dello sport italiano che si è dissolta, sai, sono quelle vicende che comunque interessano, non ti dico alla casalinga di Voghera, ma interessano trasversalmente. Esattamente, ne stiamo parlando alla radio, ne parliamo tutti i giorni anche qui in redazione, se ne parla sui giornali, quindi è evidente che l'argomento è popolare. Sì, ma per chiudere, Fausto, mi pare che Schwarzer abbia detto possibilità di arrivare a Rio non più di 3 su 10. Ma secondo me ci può arrivare. Dunque, ci sono due fattori. Uno sono i tempi proprio della giustizia sportiva. Se lui otterrà lo sconto, come penso avrà, perché poi i calcoli li hanno fatti bene, io ho scritto anche che è tutto apparecchiato, i calcoli sono stati fatti, lo sconto credo che arriverà, e quindi lui avrà il tempo di fare il risultato cronometrico che serve nella finestra giusta. In Italia non ci sono marciatori a suo livello, quindi lui sicuramente otterrà una prestazione, anche se va alla metà di quanto andava prima, otterrà sicuramente una prestazione cronometrica superiore agli altri. Là bisognerà vedere come si comporterà la FIDA, la federazione che aveva detto che avrebbe sbarrato la strada a Schwarzer dal punto di vista etico, perché c'è una legge sportiva anche che prevede un codice etico, sia pure non retroattivo, per cui bisogna vedere se è applicabile nel caso di Schwarzer, che è un altro discorso, e lì bisognerà vedere se la federazione considererà il tempo che Schwarzer farà una volta tornato alle gare, e a quel punto credo che, anche rivolgendosi al TAS, Svazia dall'Olimpiade ci andrà, e poi le prestazioni che farà lì, non lo so, secondo me Svazia ha i mezzi, forse non per arrivare a medaglia, ma per entrare nei primi 8 dovrebbe farsi. Sì, anche se resta da capire quanto Schwarzer ci fosse in quei risultati, perché a questo punto, perdonatemi, ma il dubbio ormai non me lo leva più nessuno. Detto questo, anche se Stefano scrive vigliacchi attaccati che è già in difficoltà ci si è messo da solo, caro Stefano. Fausto Narducci, grazie. Grazie a voi. Alla prossima. 800240024. Ho diversi ascoltatori con cui parlare, ne sono molto contento. Aspettando il campionato, ho diverse voci da farvi sentire, voci di vigilia. Andrea, provincia di Treviso, poi c'è Paolo da Pescara. Andrea, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Lei ha un'idea sul caso Schwarzer? So che vuole parlare di calcio, ma ha un'idea su questa vicenda? Sì, l'ho seguita all'epoca quando è uscita. Poi, come avete accennato voi, mi aveva dato un po' fastidio perché era diventata un po' una vicenda di gossip, quasi più che una vicenda È diventata una vicenda che ha con molti risvolti dentro. Voleva dire? Sì, io sono tifoso del Torino. Sì. E volevo fare due parole, proprio parlare un attimo della stagione del Torino, che alla fine, fino ad ora perlomeno, si è dimostrata più rosea di tutto quello di tutto, eccellente, di quello che si aspettavano i tifosi del Torino. E sono molto contento. Adesso le ultime 10 partite effettivamente riusciremo a continuare a livelli ottimi, perché c'è di due che spera che arriviamo in Europa, ma ancora, ma io ho qualche dubbio, però già avevo dubbi sul fatto di riuscire a passare a Bilbao e sono stato smentito, certo, nella maniera più... No, ma guardi, Andrea, non si possono leggere solo i risultati, è chiaro, il Torino non parteciperà agli ultimi balli dell'Europa League. Però quello che è stato fatto è già un grande risultato sportivo, eh? E io ne sono molto contento, l'ho detto diverse volte per Ventura e per questo gruppo che era stato duramente e ingiustamente criticato da molti tifosi del Torino. E guardi, io sono riuscito a riguardarmi alcune immagini ancora di quello che il Torino ha fatto a Bilbao, ed effettivamente anche secondo me è stata una cosa, tra virgolette, da altri tempi. Sì. Anche perché ha avuto una cornice di pubblico eccezionale, e quindi mi hanno raccontato alcuni amici che sono andati a Bilbao che gli stessi spettatori del Bilbao sono stati una cosa incredibile come sportività e tutto quanto. Sì, su questo è stata veramente una festa dello sport. No, poi uno stadio meraviglioso, uno stadio pieno come non siamo più abituati a vederne. Ha ragione, un'impresa da altri tempi, però è da altri tempi anche la classifica del Toro, perché se le avessero detto che a quest'ora del campionato, cioè alla vigilia della 29esima, il Toro avrebbe avuto un punto in più del Milan e due in più dell'Inter, se gliel'avessero detto ad ottobre, quando c'erano i gufi e i contestatori che facevano la ruota intorno a questa squadra, nessuno ci avrebbe creduto. A proposito di allenatori, uno un po' più in difficoltà, Pippo Inzaghi, vogliamo sentirlo? Pensi e speri ancora all'Europa League? Ma io in questo momento spero di vincere a Palermo e di fare una bella partita. Adesso fare proclami non serve a niente. Noi abbiamo detto prima del Cagliari che per noi erano 11 partite decisive, una l'abbiamo archiviata con i 3 punti, domani dobbiamo ottenerli a tutti i costi, perché una vittoria ci farebbe fare un bel balzo in avanti, ed è l'unico risultato che abbiamo domani, e andiamo a Palermo per vincere. Ma non dovete chiedermelo a me, io cosa devo rispondere? Io so che ho un grande presidente, ho dei grandi dirigenti, ho Gagliani che è una persona straordinaria, che ha a cuore il Milan e che sta sveglio tutta la notte per pensare a quello che fare di meglio per questa squadra, per cui io penso a questo in questo momento, e penso e spero di regalare delle buone partite alla gente, al presidente, ai dirigenti che comunque hanno fiducia in me, e questo è per me il pensiero ricorrente tutti i giorni. Così Pippo Inzaghi. Paolo da Pescara, grazie per l'attesa. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io volevo commentare il fatto che prima qualcuno di voi, nella vicenda della Juventus che sta chiedendo risarcimento danni alla Lega eccetera, ha parlato della Juventus ripetendo una cosa che non mi cala, e cioè praticamente la Juventus non è stata condannata per illecito sportivo. La Juventus ha avuto soltanto una vicenda legata a degli atteggiamenti antisportivi, cioè la cosa non era nemmeno da retrocessione, però siccome l'opinione pubblica ha voluto questo fortemente, tant'è che sui giornali i giorni prima della sentenza, la sentenza era stata già scritta. Allora, adesso poco importa che la Juventus chieda danni o non chieda, ne avrebbe pienamente il diritto, però perlomeno non diciamo più che la Juventus è stata condannata per illeciti sportivi. Non è così. Io ricordo una partita Lecce-Fiorentina, se non sbaglio, Lecce-Lazio, dove nelle vicende giudiziarie è emerso che c'è stato un illecito sportivo e poche altre cose, ma la Juventus non c'era mai. Allora, oggi era un personaggio sicuramente fuori delle righe, oggi è stato condannato ampiamente, ha subito le sue vicende sportive giustamente, però non ci dimentichiamo che Moggi era stato contattato dall'Inter, per esempio, l'anno dopo sarebbe stato all'Inter, cioè Moggi era una persona che era considerata un santo. Era considerato, l'ha detto anche oggi Ancelotti, un grande dirigente sportivo, però in tutto questo non dobbiamo dimenticare che Moggi comunque era un tesserato di un dirigente della Juventus, e quindi però non ha fatto illeciti sportivi per la Juve, la vogliamo dire tutta. È stata arrivata la Juve uno scudetto, ha vinto per 14 punti, con 14 punti di vantaggio. Adesso vi domando, quest'oggi la Juventus sta a 14 punti davanti alla Roma, qualcuno potrebbe mai dire che la Juventus, al di là del fatto che nella partita con la Roma ha avuto un vantaggio oggettivamente, perché quel rigore forse non c'era, ma che sta vincendo no, per questo? No Paolo, no, non è questo il discorso è che puoi avere un punto di vantaggio, 14 punti di vantaggio, meritarli tutti, sei la più forte, la Juventus di quegli anni era la più forte. Il punto è che se io su questo sono integralista e non smetterò mai di esserlo, se un tuo dirigente telefona ai designatori arbitrali e in qualche modo pilota le designazioni, insomma non si può dire che sia tutto normale, no? Quindi non si può dire che la sentenza fosse già scritta. Vorrei far sentire Zamparini? No? Marilena da Roma? Certo, volentieri. Buongiorno Marilena. Buongiorno. Dica. Io volevo parlare rispetto alla Schwarz, alla questione del... Schwarzer, sì. Sì, Schwarzer, oddio. Dunque, premesso che chiaramente a livello sportivo è stato spregevole quello che lui ha fatto, perché insomma chi utilizza il doping è chiaramente... Un truffatore. Però devo dire... Sì, esatto, un truffatore. Però devo dire che io ho ascoltato la sua intervista, è capitato di ascoltarla in diretta, e devo dire che, diciamo, in lui trovo almeno un punto a favore nell'ammissione totale, diciamo, della sua responsabilità rispetto a quello che ha fatto e nella modalità di come vuole recuperare. Ora, diciamo che ognuno di noi dovrebbe avere la possibilità di poter essere reintegrato rispetto a un errore commesso, pagandone il prezzo lui lo pagherà. Se riuscirà a fare quello che ha detto, che insomma controlli 24 ore su 24, riuscire a rientrare senza l'utilizzo del doping, diciamo che comunque un messaggio di diciamo ammissione delle colpe e di tentativo di recupero. Di riabilitazione, di, esatto. Di recupero. Quindi, di recupero. Diciamo, una seconda senso, chance che non, esatto. non si può negare. Questo, beh, io direi questo, di no, anche perché questo, poi sono, mi sì, sono anche rimasta se... un po' scioccata rispetto a come viene invece diciamo in altri sport, come anche nel calcio, quelli che vengono coinvolti in, non lo so, calcio scommesse, eccetera. Io li vedo che continuano a giocare e cioè sono rimasta abbastanza colpita. È una Caroline Costner che solamente perché si è ritrovata ha avuto una pena draconiana che però era lei prevista dalle normative. Sì, Schwarzer è stato bravo a confessare tutto eccetera eccetera, anche se su questa vicenda poi mi restano forti dubbi su chi c'era o ci poteva essere dietro di lui, e che alla fine non è stato stanato, perché non ci credo nemmeno se lo vedo che andava da solo con lo zainetto $1,500 euro, quello che erano, in Turchia a comprarsi le iniezioni, e nessuno sapeva niente. Quindi lati oscuri restano, ragazzi. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione, da parte mia Carlo Genta, buona Pasqua a tutti, ci sentiamo lunedì in diretta, Pasquetta alle 2, ciao! Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale, eccolo!